nel mezzo della luce. La luce sembra spegnersi, i poli spengono il loro splendore. Con la vita, la sua radice, il suo gambo è molto forte, il suo seme sopporterà. Ma dobbiamo fare qualcosa se vogliamo per placare la fame. Non torniamo al passato, sino solo per ricordare, sino solo per non tornare agli errori da replicare. Facciamo evolvere che la vita e il suo seme non smetteranno di evolversi nel mezzo della luce. La luce sembra spegnersi, il pollo spegne il loro splendore. Con la vita, la sua radice, il suo gambo, il morto forte, il suo seme, sopporterà.